Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È in vigore da alcuni giorni un nuovo sistema anti-evasione, il cosiddetto SID, Sistema Interscambio Dati, che riguarda i conti correnti bancari. Ne parliamo col presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, un nuovo sistema, qualcuno ha parlato di eccesso di invasività, insomma, dei controlli anche nei conti correnti, però mi pare che la vostra posizione sia, insomma, positiva su questo sistema. Certo, noi sappiamo che in Italia uno dei problemi più grossi che ha il nostro paese è quello dell'evasione fiscale e chiaramente parallelamente quella della contraffazione. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, riteniamo che questo nuovo dispositivo che il governo ha messo in atto in questi giorni e che è andato a regime da questa settimana possa essere certamente un deterrente abbastanza efficace per scovare gli evasori, anche perché è un sistema appunto automatizzato che andrà a verificare un po' tutti i conti correnti e poi di conseguenza provvederà a dare le dovute comunicazioni a chi, insomma, di queste cose se ne deve occupare. Concretamente noi normali correntisti non ci accorgeremo di nulla. Beh, diciamo una cosa, amico. Una volta per poter fare le verifiche sui conti correnti era necessario avere un'autorizzazione da parte della magistratura, no? Con questo sistema qua invece l'acquisizione dei dati sui depositi e sui movimenti era automaticamente e per tutti i clienti delle banche. Certo, c'è stato un grande ragionamento e una grande polemica su quella che è anche il discorso della privacy, perché certamente non è una cosa che fa piacere e le segnalazioni che abbiamo ricevuto all'Adico riguardo questo argomento l'hanno fatto ben capire e comprendere. Però è anche vero che le garanzie che hanno dato in termini di riservatezza e di privacy sono state molto discusse e molto approfondite e anche vengono garantite in tutte le maniere, perché rispetto a prima, se il controllo e le segnalazioni venivano fatte manualmente, oggi invece non c'è sostanzialmente il contributo dell'uomo, ma di un server e di un automatismo che andrà ad agire su questo meccanismo che poi alla fine segnalerà, per cui almeno in senso di riservatezza di privacy i cittadini possono rimanere più tranquilli. Ecco, ovviamente questo riguarda tutto ciò che è tracciabile, che è documentato, che passa tramite i bonifici, gli IBAN e tutto ciò che è effettivamente verificabile. Ciò che invece gira in contanti, e sappiamo che molta parte dell'economia italiana funziona ancora con il denaro contante, quello evidentemente è difficilmente verificabile. Chiaro, anche se in quest'ultimo periodo abbiamo visto che i governi hanno sempre più limitato la possibilità sia del prelievo che dei pagamenti in contanti. Sappiamo che ci sono anche dei limiti di operazioni per quanto riguarda se queste operazioni devono essere volte al pagamento, perché sostanzialmente non si può pagare per oltre 1.000 euro in contante, come già sappiamo che oltre 500 euro comunque scattano delle segnalazioni, per cui comunque questa cosa è già stato un buon passo rispetto a quello che normalmente prima invece non c'era certamente una regola ed era tutto fuori controllo. Chiaramente le segnalazioni che noi abbiamo ricevuto, come ho detto, non sono segnalazioni che hanno fatto molto piacere, perché comunque le persone si sentono di appartenere a uno Stato sempre più controllore di tutto quello che, insomma, rientra anche nella nostra vita quotidiana, nelle nostre attività, nei nostri pagamenti, per cui, sai, come tutte le cose dicono, ma perché ci deve essere tutto questo controllo quando basterebbe rendere obbligatorio e scontrino, dare la possibilità alle persone di detrarre alcune spese fiscali in modo da incentivare e controllare quelle che sono normalmente le normali spese quotidiane anche di una famiglia, ma non solo, parliamo anche di aziende. Certamente però non fare niente sicuramente non si potrebbe risolvere il problema, perché sappiamo che oggi giro di l'evasione fiscale in Italia supera di gran lunga quello che sono un po' i contenuti delle finanziarie che i governi ogni periodicamente propongono per poter contenere il debito pubblico. diciamo un'altra cosa, che se uno ha la coscienza pulita non dovrebbe avere nessun problema a farsi controllare. Sì, questo sono perfettamente d'accordo con Damiano, però dobbiamo anche dire che molti ci hanno fatto presente come essere in regola oggi è molto complicato, perché comunque ci si fa, ci si scontra con una burocrazia e con un sistema che veramente è complesso. Io mi ricordo che qualche giorno fa ero presente in una trasmissione dove c'erano delle persone molto importanti, tra cui anche esponenti di spicco, con i politici, c'erano commercialisti, tributaristi, c'ero io come associazione dei consumatori, e alla fine vedo che comunque i problemi comuni che abbiamo tutti sono gli stessi, cioè manca un sistema che sia uguale per tutti, perché ogni 3 mesi vengono riviste le leggi, vengono riviste le circolari, non c'è la certezza della previsione delle tempistiche. Poi, sai, si vorrebbe un po' che quello che venga deciso sia una cosa che poi venga consolidata e rimanga sempre tale. Invece purtroppo vediamo che ogni governo, ogni ministro cerca sempre di rivoluzionare un po' tutto quello che è stato deciso precedentemente, creando sempre grandissime difficoltà e soprattutto una burocrazia che comincia veramente a diventare sempre più complessa ma dispendiosa, a tal punto che insomma, le persone veramente non sono neanche più in grado di svolgere il loro lavoro, perché c'è anche un autonomo che ha un bar, gli dico sempre, prima deve imparare a fare un po' il commercialista di se stesso, poi deve imparare a fare il caffè. E dunque questi controlli in vigore da questi giorni, vedremo poi se l'effettiva entrata in vigore creerà qualche problema o creerà effettivamente anche un recupero di quello che è l'evasione. Con l'Adico ci ritroviamo anche la settimana prossima, cambieremo gli orari, quindi non saremo più in onda in questo orario in cui ci ascoltate adesso, ma il martedì mattina alle 9.40, il giovedì mattina alle 9.40, in replica i 2 appuntamenti il venerdì pomeriggio alle 18.25, ma avremo modo di ricordarvelo ancora. Intanto grazie all'Adico, il presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.